chi conta le calorie, chi si racconta un sacco di bugie, chi va in palestra a tutte le ore e si controlla le maniglie dell'amore. C'è chi prende antiossidanti, omega 3 e fitostimolanti, chi si misura tutte le sere e fa il tagliando ai fianchi ed al sedere. Ma intanto l'anima si invecchia, nonostante i nuovi dei. Ma intanto l'anima si invecchia, come il ritratto di Dorian Gray. C'è chi mangia la carne a chili e poi si fa tirare con i fili, chi sogna un seno misura a sesta, chi si rimette i peli sulla testa. C'è chi tiene alto l'onore e prende il Viagra per fare di più l'amore. C'è chi si sente ancora un po' velina e si rifà nuova lava. Ah, ma intanto l'anima si invecchia, nonostante i nuovi dei. Ma intanto l'anima si invecchia, come il ritratto di Dorian Gray. Dorian Gray.